Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Buongiorno e benvenuti a tutti a questo nuovo programma Mangia come parli. Mai avrei pensato, sono onorato di avere buongiorno lo chef Oldani. Buongiorno che faremo ogni settimana qui dalle 9 alle 10 del mattino? Ma ci divertiremo un po', parleremo di quello che è la cucina, che è quell'argomento che interessa a tutti perché tutti quanti ci nutriamo, e poi ci divertiremo anche dando delle ricette, ma soprattutto tue ricette, se non sbaglio. Sì, soprattutto mie ricette, no, soprattutto le ricette dello chef, ma in maniera molto pop, molto semplice. Anzi, siamo a disposizione, lo chef è a disposizione per una sorta di SOS Oldani allo 02 46 52 41 84 oppure con la mail mangia come parli @radio24.it i vostri dubbi, le vostre perplessità, i vostri trucchi, insomma per tutto quello che riguarda i vostri ingredienti, la vostra terra, insomma siamo aperti a qualsiasi cosa. Siamo aperti a qualsiasi cosa e poi avremo degli ospiti straordinari ogni settimana, fra poco già ne avremo uno pazzesco che ci racconteranno il rapporto col cibo, perché il cibo è veramente democratico, è qualcosa che riguarda tutti, insomma dai papi agli ambasciatori ai capi di stato fino insomma alla working class, cosa che l'uomo non, di cui l'uomo non può fare a meno, quindi esatto. Non, dipendiamo solo dal cibo che e soprattutto ho già fame tu. Alle 9 di mattina di questo sabato tante cose di cui parlare assolutamente, ma c'è un tema importante, poi so che tu mi farai un test per, sì, io direi sì. Vabbè, il test li facciamo durante prima e dopo la trasmissione, e poi io direi che questa volta oggi abbiamo scelto i funghi, visto che siamo anche nel periodo, cioè ogni settimana sceglieremo un alimento diverso, diverso, e soprattutto proveremo a seguire anche quello che è la stagionalità, in un modo o nell'altro proveremo a seguire anche quello. Mi piace molto anche perché c'è un periodo dei primi freddi, insomma dopo due mesi per me insomma tra Ponza e Procida e posti come questi a mangiare pesce, insomma cominciano i primi freddi, andiamo su quello che è una cucina un po' più secondo me gustosa, un po' più interessante sotto il livello di prodotti, ed è appunto per questo che da buon milanese l'autunno credo sia la stagione che mi intriga di più. Perfetto, allora partiamo col fungo, fra poco già c'è la ricetta che mi farai fare? Ma la ricetta sarà molto semplice, quindi preparati che insomma dovrai poi rispiegarla. Va bene, sono pronto, sono all'altezza del mio compito, spero, e però intanto c'è un grandissimo ospite, questo. Adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, no, non esistono più, con te io li vivrò. Benvenuto Andrea Bocelli, come va? Bene, grazie. Come stai? Fra un attimo parliamo anche delle cose belle che stai facendo, perché c'è la Celebrity Fight Night in arrivo su Rai 1 il 15 e ti seguiremo. Ma tu il cibo, tu non mangi, io mangio più di te, mi sa. Quanto mangi? Molto? Ti piace? Ma io mi piace mangiare, mangerei tanto volentieri, ma purtroppo il mio lavoro mi impone una dieta che è un po' simile a quella di un atleta, ecco, perché... anche di un giornalista, scusami, ciao, no. Andrea, buongiorno, anche quella della dieta, no, del giornalista, no. Tipo Pierre, ciao, certo. Sono Davide Oldani, benvenuto. Se devo parlare di funghi prima, io sono qui nella mia campagna dove i funghi quando vengono buonissimi, solo che se non piove quest'anno per ora niente. Quest'anno, fra poco scopriremo le ultimissime sui funghi di questa stagione. Ma è vero che ti piace cucinare la carbonara e che hai un'idea precisa sulla pizza? Come ti piace la pizza? Dunque, la pizza mi piace alta, come la fanno a Napoli. Vabbè, certo. Sostanziosa, insomma, la pizza cotta non troppo. Non mi piace la pizza croccante, quella... capito, sottile e croccante, quella secondo me non è pizza, è un'altra cosa. Quella piace a Veronica. Condivido Veronica. Andrea, perché quella col cornicione, come chiamano a Napoli, credo sia la più buona. E poi tu sai, Pier, che a Napoli hanno una pizza con un diametro preciso per consumarla tutta quando è calda. Sì. Quindi il concetto di pizza è assolutamente quello che dice Andrea. Ma qui siamo, qua c'è l'unanimità. Anch'io sono per la pizza alta, quella col cornicione alla napoletana, veramente straordinaria. E senti, invece, anche sul caffè mi sembra tu hai delle idee precise, no? Il caffè mi piace molto, sono quasi un caffeinomane, ahimè. anche se poi penso che il caffè alla fine non faccia male affatto. Ora poi è chiaro che l'abuso delle cose, se si abusa fa male anche l'acqua. Giusto, giusto, vero, vero. L'acqua si affoga poi. Sì, ma quanti caffè in una giornata? No, 4 al massimo. 4? Dai, 4 va bene. Va bene. 5 in casi eccezionali. Via. Andrea, mi viene da chiederti quale tipologia, se l'espresso, il ristretto, quello ma con, guarda, la moca. No, anche lì il caffè napoletano. Io potrei, io faccio, quando posso, faccio sempre tappa a Napoli dal professore. Vabbè. Perché lì si fa uno dei migliori, forse il miglior caffè che ho mai sentito. Però il caffè è molto legato, come Oldani sa senz'altro molto meglio di me, è legato alla stagione, alla temperatura, alla pressione atmosferica, eccetera. Alla tostatura soprattutto, quando si vuole un caffè. Se vai in un bar dove vai a prendere il caffè tutti i giorni e vedrai che troverai un caffè diverso a seconda se la stagione è buona, non è buona, se c'è umidità, alta pressione, basta. Cioè il caffè è molto soggetto a queste cose qui. Certo, beh, poi è anche un rito, devo dire che è un rito anche la preparazione del caffè. Io voglio ricordare che tu sei impegnato in mille cose, e una cosa molto bella che stai facendo in questo periodo è con la tua fondazione, con la tua foundation, c'è la possibilità proprio in questi giorni di inviare un sms o chiamare il 45523, perché c'è una bellissima iniziativa per tanti bambini in Italia e ad Haiti. So che tu sei sempre un po' timido quando devi parlare di queste cose, per cui ne parlo io, però insomma sarà anche il grande tema del 15 settembre, della Celebrity Fight Night, in cui ci sarà Elton John, che occhio e croce mi sa che è uno che mangia fish and chips, Oldani, che dici? Elton John non mi sembra uno da carbonara. Beh, carbonara potrebbe accettare sicuramente, ha un'altra cultura del cibo, più che altro, magari qualche pezzo di pasta lo mangia, però la sua cultura è sicuramente diversa. Abbiamo un cingolino di qualsiasi tipo, fateci sentire un cingolino, perché io vorrei che adesso Andrea Bocelli, in esclusiva per Mangia Come Parli, ci desse la sua ricetta della carbonara, perché mi dicono, c'è l'uccellino che mi ha detto che sei bravissimo. Allora, com'è la carbonara alla Bocelli? Abbiamo il jingle, ascolta. Eccolo, guarda. Eccolo qua. Ascolta, però te poi dopo devi chiedere a Oldani di cantare, perché se no... cioè, ma noi guarda, stiamo organizzando tutto. È come il nostro incontro, no Andrea? Della nostra cucinata. Mi vergogno moltissimo. Comunque io ti posso dire in tutta umiltà come faccio la carbonara io. Perfetto, vai. Allora, intanto gli ingredienti: serve l'aglio, l'olio naturalmente, le uova fresche e il guanciale. È molto importante avere il guanciale. Eh certo, guanciale il salume, allora, però guanciale bisogna specificare. Ma sono litigate, Il salume, no Andrea? Non il guanciale fresco. Il guanciale sarebbe il guanciale della guancia del maiale, no? Sì, però fatto a salume, non proprio quello fresco, quello che assomiglia un po' al profumo della pancetta. Va bene, tutto a posto. Il guanciale gate è chiuso con una stretta di mano. Andiamo avanti, poi? Allora, facciamo il battuto dell'aglio e del guanciale. Sì. Lo metto in un recipiente sufficiente in base a quello che ha la pasta, che ha la quantità di pasta, poi metto olio, quasi sì, a copertura, e comincio a farlo soffriggere lentamente. Ma il segreto è che a me piace che nel momento in cui scolo la pasta e la rimetto nella padella o nella pentola, a seconda di quello che ho, e poi ci butto sopra l'uovo deve arrivare sulla pasta nel momento in cui anche il soffritto è nel suo massimo momento di sfrigolamento. Quindi il momento Bocelli in cui il soffritto e l'uovo aderiscono sulla pasta. Ripartiamo da qui, perché ho fatto delle facce, Andrea. Oldani ha fatto delle facce incredibili. Fra poco ci dirà tutto sulla ricetta. Intanto però traffico, pure alle 9 di mattina c'è traffico, traffico. Il mio piatto migliore. Quello grande per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... Mangia come parli, mangia come parli. Mangia come parli, 0246 52 41 84, nostra segreteria telefonica per l'SOS Oldani, per tutti i vostri consigli. Con Andrea Bocelli stiamo ultimando la ricetta della carbonara bocelliana. Quindi siamo arrivati al punto in cui praticamente l'uovo e il soffritto aderiscono, no? Andrea? L'uovo deve rimanere in mezzo tra la pasta appena scolata e quindi ancora bollente, diciamo, e il soffritto che è buttato sopra l'uovo sfrigolante, insomma. Sì, sì. Beh, devo dire però io Sono emozionato, è capace che ho fatto delle dimenticanze clamorose. No, ma secondo me, guarda, io la mangio, Andrea. Io ho già, già mai conquistato. Poi chiaramente va girata e poi ci va messo il pecorino. Romano. Anche e il pepe. A me piace molto aggiungere il pepe. Ecco, io direi, Andrea, che in questa ricetta secondo me va bene, un po' in sintonia con quella che è la cucina del mio amico Pierre, un po' untuosa. Beh, e poi devo dire, mancava una piccola cosa, secondo me un goccio di, se vuoi, acqua o latte per diluire l'uovo ci evita quel famoso effetto uovo scramble eggs, cioè l'uovo cotto. E quindi hai una... Giusto. No, latte non te l'ho mai messo, ora provo. Prova, una piccola prova, non sai, è uno stravolgere la carbonara. Poi ci sono tutte le varianti, perché se ti piace un po' più bagnata, là ci metti un chiaro a persona, cioè un uovo intero a persona. Se invece la vuoi meno bagnata, togli qualche chiaro e allora rimane un po' più... asciutta. Sì, come dicevi prima per il caffè, scusami se ti interrompo, come dicevi per il caffè, questa è una pasta che deve essere naturalmente bilanciata con il peso, perché se no una pasta con un soffritto... Ma noi sul peso non abbiamo problemi. Fra l'altro, con questo accorgimento eviti anche l'effetto scramble eggs, quando vedi Elton John, quando lo incontri, digli che l'hai fatta apposta per evitare questa cosa qui. Vi ricordo, 45523 fino al 18 per poter donare per i bambini italiani e di Haiti per la Andrea Bocelli Foundation, chiamato, inviato un sms. Il 15 settembre Celebrity Fight Night. Ho una domanda definitiva, Andrea, perché mi hai parlato di questa prima di un concerto, che si mangia? Cioè, se tu hai un concerto la sera, nei giorni precedenti e il giorno stesso, che mangi? I giorni precedenti, ti ho detto, bisogna comunque mantenere una dieta che ti faccia star bene, una dieta come quella degli atleti più o meno. Poi il giorno del concerto si mangia almeno 4 ore prima del concerto. Ecco. Non devi mai avere, quando si va sul palco bisogna che tu abbia già completamente digerito. Sì, perché altrimenti si rischia, no? Andrea, io ho un bel ricordo del tempo passato con te in cucina a casa tua, nel cucinare una fregola, una pasta mantecata e un pezzo di filetto, dove io me la ricordo bene. Feci appunto 3 piatti e lui 3 canzoni dedicate, quindi il baratto credo che sia il metodo più bello per poter vivere. Io vorrei potermela ricordare, ma non c'ero e quindi sono particolarmente geloso di questo momento. Andrea, grazie di tutto, grazie di cuore, in bocca al lupo per i concerti, ti seguiamo nella Celebrity Fight Night il 15 settembre e mi raccomando, consiglio di Oldani, diluisci magari un po' meno, però lui è molto in forma, l'ho visto anche quest'estate a Forte dei Marmi, devo dire che è molto in forma. Grazie Andrea, e ricordiamo la Celebrity Fight Night 15 settembre. Ma allora torniamo al fungo, aiutami a capire sto fungo. Io per esempio, per me il fungo è con la pappardella, no? No, cioè, ci sta, sai, il fungo è veramente un prodotto importante, soprattutto la cosa fondamentale che devi fare è accertarti che il fungo sia buono, perché ci sono intossicazioni. Sai, che Crociani quest'estate ha avuto un problemino col fungo, ho sentito, non so se è stato il cuoco che ascoltava oppure, però ho sentito. Bene, perché col fungo non si scherza, e noi abbiamo il professore di fisica della materia all'Università di Parma, Davide Cassi, benvenuto a Mangia Come Parli, come va? Tutto bene, tu? Bene, bene, molto bene. Allora, qui sono col mio amico Pierre, eravamo un po' curiosi sul discorso funghi, ho pensato che tu fossi la persona migliore per poterci dare qualche delucidazione. Poi magari Pier ti chiederà qualcosa su quella cucina destrutturata di cui se ne parla da qualche anno. So che lui è un molecolare nella cucina. No, io sono molto strutturato anche nella cucina. Partiamo dal funghi. Innanzitutto, quanti funghi ci sono? Tante tipologie, no? Ma difficile dirlo, perché l'universo dei funghi è immenso. Se prendiamo la classificazione biologica, sono funghi pure gli eviti e le muffe. Se prendiamo quelli che noi chiamiamo funghi nel linguaggio comune, i funghi sono tantissimi, i funghi che si mangiano sono tutto sommato relativamente pochi. Un po' perché alcuni sono velenosi, un po' perché la loro commestibilità, il loro uso gastronomico è legato alle singole culture. Certo. Per esempio, in certi ambienti piacciono funghi che in altri non piacciono. In Spagna, nei Paesi Baschi, costano tantissimo, sono pesantissimi dei funghi che a noi dicono poco. Mentre il porcino, di cui noi andiamo a matti all'estero, di solito non è apprezzatissimo. Vabbè, ma è pieno di gente che non capisce. No, vabbè, le culture gastronomiche sono ovviamente il regno della democrazia. Fra poco, fra l'altro, chef, tu mi fai fare una ricetta con i funghi. Certo, io sono già un po' teso. Davide, una curiosità, visto che parliamo di cucina, tu sei famoso per quello che è la parte scientifica dei prodotti, degli ingredienti, del nuovo modo di affrontare la cucina, e su quel discorso di cucina destrutturata, Cosa ci puoi dire su questo tema che da circa una decina d'anni o più ha preso piede nelle cucine quotidiane di tutti noi? Il fungo mi sembra destrutturato di per sé o no? O si può destrutturarlo ancora, professore? Ma poi parliamo anche del fungo, insomma. Molecolarizzare o fare qualcosa del genere? No, do anche qualche suggerimento. No, in realtà negli ultimi 20 anni, facciamo 20, c'è stata una rivoluzione molto importante nel mondo della cucina, Davide lo conosce benissimo, che è stata connotata da un connubio nuovo tra scienza e cucina. Io dico nuovo perché scienza e cucina hanno sempre avuto qualcosina in comune, soltanto che la scienza non è mai stata, come in questo caso, invece ispiratrice di un nuovo stile di cucina, di nuove tecniche e anche di un nuovo modo di servire e di impiattare. In tutto questo l'idea di destrutturazione che era partita a metà degli anni 90 con Ferran Adrià è piuttosto interessante, perché io la chiamerei più che altro cucina ristrutturata che non destrutturata, perché si tratta di cambiare la struttura degli alimenti. Per esempio prendere un alimento solido e trasformarlo in una schiuma, prendere un alimento una liquido, nuvola di baccalà, una spuma, perché spuma, no? Un alimento liquido e trasformarlo in qualcosa di solido. Il fungo al suo interno ha tanta acqua, sbaglio, no? 95%. Principalmente d'acqua, quindi assolutamente. È già ibrido da questo punto di vista. Ma sto fungo come lo facciamo, Dani? Io direi stiamo nella versione moderna. La prima cosa da fare, un po' di carboidrato vicino, però non è necessario, dipende come componi il menù. Il professore magari mi può aiutare in questo: se nella composizione di un menù ho già un carboidrato, come un classico menù all'italiana, dove c'è la pasta, una pappardella molecolare, non si può avere, no? Quella aspettiamo, abbiamo bisogno di masticare. Molte volte la molecolarizzazione del prodotto è un qualcosa di più liquido, poi noi abbiamo i denti che ci aiutano a masticare e ad apprezzare anche il cibo. Allora, quello che dicevo io, una ricetta, un suggerimento che poi ti rinterrogo, potrebbe essere un ragù di funghi, purché siano freschi, belli e naturalmente con la tracciabilità, che è la cosa fondamentale per questo prodotto, con un po' di mela che viene arrostita assieme al fungo e poi utilizzando un'erba per dare quel tocco in più di profumo. Con questo io ti devo dire che un altro piatto di carboidrato ci sta, una carne o un pesce ci potrebbe stare, un dolce altrettanto. Assolutamente. Invece, Pier voleva che io dicessi... La prima volta che sono venuto a cena da te ho mangiato il gelato al fungo. Con un brodo di funghi, come ti avevo detto, che noi chiarifichiamo. Sai, Davide, noi riprendiamo un po' i ritagli del fungo quando lo puliamo, facciamo una chiarificazione del brodo e poi puoi mantecarlo, perché ci sono dei macchinari molto moderni che ci aiutano a mantecare, a rendere tutto cremoso e freddo come un sorbetto o un gelato. Quindi devo dire che nel modello nuovo della cucina, questo fatto di miscelare il sale e lo zucchero tra cucina e pasticceria è diventato parte anche, credo, del lavoro del professore. Il nostro professore viene da una zona d'Italia che è un po', insomma, una delle eccellenze assolute, perché Parma è terra di cucina, forse anche di cucina tradizionale. Anche di molti funghi, credo, Davide, mi confermi, anche di molti funghi. Abbiamo i funghi migliori del mondo, Bogotago, ecco, lo confermo. Vedi. Bogotago, hai sentito proprio la... va bene, come i parmigiani, questa molecolarità, come l'hanno vissuta? Ma Parma è molto tradizionalista, però ci stiamo facendo avanti e non si può mollare. Non si molla. Però il molecolare, guarda, per avere una spiegazione più veloce, il molecolare è anche quando tu capisci il perché. Quando fai la maionese col tuorlo d'uovo e l'olio si amalgama, diventa cremoso col giusto, no professore? Col tuorlo. Il molecolare può voler dire tante cose, può voler dire usare ingredienti innovativi, usare dei macchinari innovativi, ma anche usare tecniche nuove però fatte con ingredienti e strumenti che sono in una cucina comune. Certo. E direi che quest'ultima accezione è quella che si sposa meglio con la nostra italianità. Infatti, se prendiamo quasi tutte le creazioni fatte da chef italiani in questo campo, appartengono a questa categoria. Assolutamente. Professore, io la ringrazio, l'abbraccio, mi saluti i migliori porcini d'Italia o d'Europa. Saluti anche a voi. Se ne incontra qualcuno, gli dica che io gli voglio bene a questi porcini. Benissimo, si avvicina il momento dell'SOS Oldani con tutte le vostre, i vostri messaggi, segreteria telefonica, vi ricordo 0246 52 41 84 e anche il test che mi farai, perché io cuciderò un tuo piatto a base di funghi, ma è possibile fare un menù tutto a base di funghi? Ma direi di sì, se andiamo un po' per quello che l'idea della vecchia cucina era magari non ripetibile un ingrediente, ma in questo caso credo che con un buon suggerimento della selezione di 5 funghi diversi si possa fare. dai porcini ai finferli, anche a qualche fungo coltivato, direi che sono anche quelli interessanti sotto alcuni punti di vista, e quindi direi assolutamente sì. Va bene, allora fra poco ci dirai questo e molto altro, ci sarà l'SOS Soldani, ci sarà ovviamente il momento del test, mi farai insomma test, imparare poi qualcosa. Poi ricordati che il test vero lo farai nelle mie cucine, attenzione. Vabbè, la cosa si sta, l'affare si complica, ci fermiamo solo per un attimo e fra poco avremo anche un personaggio straordinario che parte, perché insomma il cibo lo sappiamo è anche contaminabile con tante altre cose, e con la montagna, ed è uno scrittore straordinario che sta spopolando con un libro capolavoro in cui si parla di montagna, silenzi e forse in qualche modo anche di funghi. Fra poco. Afectuoso para nuestro amigo Pino Insegno y todo el equipo del Voice Anatomy, ya tú sabes, de la Radio 24. Hallo Leute, liebe Grüße aus Deutschland an die ganzen Freunde von Radio 24, Pino Insegno, und an alle die Leute, die in der Voice Anatomy arbeiten. Tschüss! Hola, soy Francisco y desde Santiago de Chile le quiero mandar un fuerte saludo a todos mis amigos de Radio 24, en particularmente a mi amigo Pino Insegno y a toda su gente de Voice Anatomy. Mucha suerte y nos vemos pronto. Tutte le domeniche, dalle 14 alle 16, Voice Anatomy, ovviamente su Radio 24. Mangia come parli, mangia come parli. Bentornati a Mangia come parli, vi ricordo l'SOS Soldani, tra poco sentiremo i primi che sono arrivati sulla nostra segreteria telefonica per tutte le vostre curiosità, i vostri dubbi, i vostri chiarimenti. 02 46 52 41 84 il numero, la mail è mangiacomeparli@radio24.it. Il tema di oggi è il fungo, lo stiamo affrontando, abbiamo prima sentito un grande della canzone con Andrea Bocelli, poi abbiamo sentito il professor Cassi di fisica della materia all'Università di Parma. Fra poco avremo il momento della ricetta, me lo confermi? Sì, nella pratica, arriva sì, il mio momento, arriva il mio momento. Ma intanto, visto che insomma il fungo confina con il concetto di montagna, con il silenzio, è qualcosa di molto letterario, io do, e sono particolarmente onorato, il benvenuto a Paolo Cognetti, milanese, classe 78, vincitore del premio Strega. Come stai, Paolo? Sto bene, sono ad Amsterdam per l'uscita del mio libro in olandese. Ecco, perché quindi non mi trovi in montagna ma su un canale. Senti, ma tu hai fatto, questo libro è stato già tradotto e venduto, cioè è prenotato in 30 paesi diversi ancora prima che uscisse. Come hai fatto? A parte che è un capolavoro. 34 paesi. Ho una bravissima agente, ah, e ecco, devo aver beccato qualche cosa di particolare con questo libro. Ecco. Senti, è un libro nel quale si parla di montagna, di silenzi, di pareti, di roccia, di amicizia, di paternità, di silenzio. E il cibo che c'entra? E che rapporto hai col cibo? È un rapporto... Ho lavorato in ristorante per qualche anno da cuoco in un ristorante di montagna perché abitavo nella baita e avevo bisogno di mantenermi, quindi ho avuto anche un rapporto di lavoro, e ultimamente il mio rapporto è cambiato un po' perché negli ultimi 2 anni sono diventato vegetariano, quindi tante cose le ho dovute rivedere. Però quindi col fungo, fra la montagna e ovviamente l'essere vegetariano, penso tu abbia un buon rapporto, no? Sì, assolutamente. In montagna non è facile essere vegetariani, perché insomma le cose che si possono trovare non sono molte, quindi i funghi sono una grande risorsa. Però devo dire che la montagna cresce molto in questo momento particolare, perché si vanno a riscoprire tutte quelle risorse che sono le erbe, che sono appunto i funghi, che sono tante vegetali, piccole cose che non appartengono al regno animale. Qual era il tuo capolavoro da chef? Il capolavoro letterario sono le 8 montagne, invece proprio il piatto, quello che ti dà più soddisfazione cucinare? Beh, in Valle d'Aosta c'è questa zuppa che è originaria della Valpellina, infatti si chiama zuppa alla valpellinense, poi in realtà con varianti è la zuppa alla valdostana, che è fatta con pane, fontina e poi verdure che possono cambiare. Io ci mettevo i porri, quindi pane, porri, fontina e poi il brodo, e veniva una zuppa da passare al forno. Che dici, chef? Ti piace? Credo che sia una cosa soprattutto energetica, perché poi vivendo magari sulle montagne hai uno sforzo fisico diverso da quello che è quello della città. Però farei sicuramente una piccola selezione su questo piatto, che potrebbe essere quello appunto di queste erbe che crescono spontanee, che sono state riscoperte e che sicuramente danno quel tocco in più di gusto, al contrario togliendo un po' di quello che è la pesantezza del piatto. piatto, quindi diminuirei un po' la fontina, metterei un po' meno pane e abbonderei un po' più con le erbe, magari non proprio il porro che non credo sia un ingrediente. Mi state facendo venire voglia di autunno e di montagna. La montagna che ha un'anima, ce lo conferma Cognetti, è un po' questo il senso del libro, è un luogo nel quale riscoprire dei pezzi di se stesso in questo rapporto autentico con la natura? Direi che più che la montagna siamo noi che abbiamo un'anima e certe volte ce la dimentichiamo, è un'anima assopita, è un po' dalla nostra vita così ipersociale e nella solitudine, nella vicinanza con i boschi, con la montagna, quest'anima per qualcuno di noi si risveglia, quindi in realtà la montagna è uno specchio che noi usiamo per parlare un po' di più con noi stessi. E questa cosa secondo me la vive anche bene, perché insomma, con il cibo è l'unica cosa dalla quale noi non possiamo fare a meno, quindi se l'anima e il corpo viene nutrito in maniera corretta, in questo caso con prodotti della montagna, credo sia perfetto. Senti, hai fatto questa scelta vegetariana, posso chiederti qual è stata insomma la principale ispirazione che ti ha portato a questo cambiamento e qual è il tuo piatto vegetariano del cuore, se c'è, ci sarà immagino, no? Sì, le ispirazioni sono state un paio. Una è che da qualche anno ho un cane e non avevo mai voluto un cane, ne avevo mai pensato di prenderlo, ma ho dovuto salvare questo cane che non era capace di fare il pastore di mucche e quindi il suo padrone non lo voleva più, forse avrebbe fatto una brutta fine, allora l'ho preso io. E da quando sto con lui l'idea di uccidere e mangiare gli animali ha cominciato a darmi un po' fastidio. Poi sono stato in Nepal 2 anni fa e lì nella valle dell'Annapurna a un certo punto c'è questo cartello dove si dice: da qui in poi entrate in una valle sacra e per rispetto alla montagna non si uccidono e non si mangiano gli animali. A me è piaciuto moltissimo l'idea di superare quel confine, quando sono tornato giù mi rattristava molto l'idea di superarlo, certo, di nuovo, di rientrare in un mondo dove si uccidevano e si mangiavano gli animali, e quindi ho smesso di farlo. Scusa Paolo, quindi solo vegetali oppure vegetariano proprio nel senso di latticini, uova e derivati? No, beh, mangio i latticini e le uova anche perché sono circondato da alpeci. Era preoccupato, quindi... per Luigi. No, io sono circondato da latticini nella mia vita, devi sapere. Sono veramente il mio sogno essere circondato da latticini. Sì, ma si cresce. Devi venire a trovarmi allora. Si cresce, 39 anni, un premio strega, insomma, dai. Si cresce, è tutto un percorso. Stai scrivendo altre cose? Sto pensando ad altre cose, adesso appena mi fermo mi metto a scriverle, ho un'idea che potrebbe essere quella buona da seguire. Bene, non vogliamo sapere di più, perché sulla cucina anche? Le idee sono sacre, come gli animali in Io Nepal. Io ho scritto sulla cucina, ho scritto, cioè? Un libro che si intitola Tutte le mie preghiere guardano verso ovest, che era una guida a New York e ai percorsi gastronomici newyorkesi. Ma non vegetariani, naturalmente. Ci sono tanti, adesso sì. Ci sono tanti vegani, anche vegani, ristoranti. Quando l'avevi fatto il libro? 4 anni fa, allora ero ancora carnivoro, infatti avevo scritto questa frase che l'America è la carne e c'era un capitolo dedicato all'hamburger. Però sai Paolo che la cosa migliore da fare per l'anima e per la testa e per il corpo è quello di dare armonia a quello che mangiamo, così come nella vita essere armonici vuol dire essere anche equilibrati. Quindi io dico assolutamente vegano, vegetariano va bene, ricordiamoci che con maggior armonia vivremmo in maniera più tranquilla tutti quanti. Beh, e molto Paolo, meno sai, social, sai, come dicevi. Lo chef ha questa ossessione bella, positiva, no? Questa necessità di mettere insieme elementi diversi, no? Il sapido, il salato, il dolce. È quello che richiama il nostro palato. Freddo, no? Noi abbiamo il palato che per tutti è molto pop, molto democratico, dove recepiamo caldo, freddo, morbido, croccante, dolce, salato. Se riuscissimo in un unico piatto a mettere questi contrasti, credo ci possa essere la possibilità di mangiare molto meglio e di stare meglio. Paolo, ti salutiamo, ti abbracciamo, ma in montagna ci torni? Alle Tre Cime, ai piedi del Monte Rosa, nei luoghi dove è ambientato? Sì, io sono ai piedi del Monte Rosa, ci abito, quindi adesso appena rientro torno lassù. Non stai male. Temperatura prevista meno 10 gradi fra poco, un po' di freddo. Un po' inizia a nevicare, mi sta. Va bene, poi viene lo chef e cucina per noi. Grazie a Paolo. Paolo Cognetti, da Otto Montagne. Complimenti. Perché poi intervistare un premio strega non è proprio normale, no? No, assolutamente. Poi 39 no. anni, bello. Complimenti. Sono particolarmente felice. Senti, io sto cercando di ricorrere a degli stratagemmi per allontanare il momento invece in cui mi dovrai cominciare a spiegare che cosa devo fare con queste mele, queste erbe, questo fungo. Allora, dai. Allora, io direi bella figura, eh? Prendiamo il porcino, che è quello, sì, più facile. Prima cosa da fare è come lo pulisci. Come lo pulisci? E lo pulisci con un coltellino, uno straccetto umido. E poi, una volta che l'hai pulito, cosa faresti? E dopo che l'ho pulito, lo cuocio. Recuperi i ritagli. Recuperi i piccoli ritagli e anche la terra che quella poca terra che il porcino ha attaccato. Che ci faccio con la terra? Tu sai che adesso nella grande cucina, nella cucina del fine dining, è previsto anche questo profumo cucina di terra. Fine dining. C'è il profumo di terra. Non la butti, ma anche perché è pochissima con il ritaglio del fungo. Okay. Quindi io ti suggerirei di fare un piccolo brodo. Giusto per assaporare un brodo di terra. Un brodo di funghi. Allora prendi questi ritagli, li fai bollire per una ventina di minuti con un po' di acqua. Sì. Li lasci riposare per altri 20 minuti. Aggiungerei, nel caso tu, siccome so che sei pratico in cucina, un po' di albume d'uovo che chiarifica questo brodo. Certo, lo stavo per dire io. Chiarifichiamo, importante. Quindi vuol dire che tiene il profumo, ma non tiene tutte le impurità della terra. Sì. Quindi una volta filtrato puoi usare questo brodo fantastico da abbinare a un qualsiasi piatto. Di solito abbiniamo vini o altre cose. Io nel caso del brodo dei funghi lo abbinerei a un buon riso cotto alla parmigiana normale con questo profumo intenso. Quindi di mi stai facendo fare due piatti? Se vuoi puoi anche usarlo. Se no, questi funghi che hai pulito molto bene li tagli a pezzi irregolari grossi. Irregolari grossi. Giusto per non essere. Per l'amore dell'asimmetria, L'apostrofo, no? Cioè delle cose, dell'entropia che c'è nel mondo. Mi piace questa cosa. Il disordine controllato, no? Quello della buona cucina istantanea. E quindi io aggiungerei, se vuoi, dei finferli ben lavati, sì, ok? Arrostiti con pochissimo olio di oliva extravergine. Sì. E poi dei piccoli pezzi di mela. Quest'anno non sarà una grande annata di mele, quindi devi andare sul mercato, vedere quelle più belle, assicurarti. Come le riconosco le mele più belle? Lo vedi, ti guardano e ti dicono sono bella. Ah, sì, E non è una cosa passita. E soprattutto calculare, guardare l'italianità. Cioè, non del esiste prodotto. La mela bella dentro? A me la bella dentro c'è, ce ne sono tante. Va bene, più o meno ho capito. Allora, la cosa fondamentale è chiarificare, amici. Chiarificate con due albumi dopo che avete fatto bollire per 20 minuti l'acqua, dopo che avete fatto riposare. Chiarificare, ma a me l'idea che tu usi pure la terra del fungo è una cosa che mi manda ai matti. Ma io sono venuto qua per farmi tu spaghi e tu mi fai bollire la terra del ragazzi, fungo. Ragazzi, parleremo, strada facendo, parleremo anche di due spaghi. Però adesso parliamo di. Ma mi piace moltissimo questa cosa. E fra poco arriva anche il momento dell'SOS Oldani con tutti i vostri messaggi, tutti i vostri consigli sulla segreteria telefonica. Mangia come parli. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta. Sono Nicoletta Carbone, diventerò la vostra salutare ossessione quotidiana, 7 giorni su 7. Dal lunedì al venerdì una rassegna puntuale delle notizie che arrivano dalla ricerca, commentata dagli esperti più autorevoli. E per chi vuole andare oltre la notizia, sul nostro sito ogni giorno approfondimenti, interviste, le risposte degli esperti, video e tutorial. Ma ci sarò anche nel weekend. Al sabato vi racconterò tutto quello che dovete fare e sapere per stare bene e per sentirvi meglio, solo quello che serve. E la domenica caccia alle bufale per riportare la verità nel piatto. La salute, il benessere e il cibo sano con Nicoletta Carbone, dal lunedì alla domenica alle 12 su Radio 24. Mangia come parli. Bentornati a Mangia come parli. Beh, insomma, dopo l'arte di Bocelli che ci ha raccontato la sua ricetta della carbonara, insomma, ovviamente è stato un grandissimo onore per noi sentirlo. Dopo Davide Cassi che ci ha parlato del fungo, che è un po' il nostro tema di oggi, con tutte le sue qualità e le sue proprietà nutrizionali. E dopo aver ascoltato, insomma, il premio Strega di quest'anno, spiegarci bene il rapporto che esiste fra funghi, montagna e la sua nuova alimentazione da vegetariano, sono qui al momento clou della trasmissione. Posso dirlo clou? Si può dire, certo, clou? No, perché è il no. Momento del SOS Oldani. SOS Oldani. E allora vi ricordo ovviamente il numero della nostra segreteria telefonica, che è 02 46 52 41 84, o la mail mangiacomeparli@radio24.it, perché tutti, proprio tutti, abbiamo dei dubbi, abbiamo delle curiosità, abbiamo magari dei nostri trucchi che vogliamo siano confermati dallo chef che è qui accanto a me, che è pronto. È pronto? Siamo pronti. Allora partiamo con Laura da Padova. C'è davvero differenza tra i sali di provenienza e colore diverso? Oppure è solo una trovata di marketing? Sali, bel sono tema, sai, è un ingrediente importante nella cucina, è un ingrediente che troviamo naturalmente in alcuni ingredienti, mi viene in mente il pesce, certo, diretto. Quindi io direi la prima cosa sul sale è di utilizzarne... È un esaltatore di sapore? È un esaltatore di sapore, di usarne il quanto basta, cioè il certo, giusto, la giusta quantità. E poi, se devo essere sincero, quelli che mi attraggono di più ultimamente sono quelli a scaglie, sono quelli del sale grigio, e ci sono alcune produzioni in Italia, da Ravenna al sud, in Sicilia, di sali di altissima qualità. Però ribadisco, la cosa più importante nella cucina per valorizzare i prodotti del territorio e anche la bontà dei prodotti stessi, di fare un uso molto delicato di questo. Attento, la quantità è decisiva, devo dire, tutte le cose della vita. Rivaluta il sale da un valore aggiunto. Mi viene in mente un esempio che ti posso fare la prima volta che ti capiterà: un pezzettino di anguria. Lo prendi, che sia ben dolce, con un po' di sale a scaglie sopra. Vedrai quanto ritirerà fuori questa anguria, quanto gusto e profumo. Datemi intenso subito un'anguria, devo provarlo subito. Chiara da Varese. Io volevo sapere perché quando cucino le melanzane e la parmigiana, anche se le lascio spurgare abbastanza a lungo, alla fine sono sempre molto acquose. Non so, per farle uso una salsa di pomodoro in bottiglia e del formaggio fior di latte normale. Allora, ma direi sulla parmigiana, parmigiana sua maestà, la melanzana, okay, si può fare. Mamma. Poi qui credo di aver capito che poi le passi in una pastella e le frigga. La cosa importante naturalmente è quando le si mette a spurgare con il sale, dipende l'altezza. Io non le farei molto alte, e poi darei un occhio naturalmente nelle 7-8 ore nel capire se c'è ancora acqua dentro o meno. Quindi è solo un modo per poterla fare bene, di controllare, non andare solo per descrizione della ricetta, ma praticarla, controllarla. Poi devo dire che sulla salsa di pomodoro in bottiglia può andare bene, magari è ancora meglio se nell'estate lei ha raccolto i pomodori e si è fatta la conserva. Chiaro. Ok, e poi magari selezionerei un formaggio fior di latte, magari andrei su un formaggio un po' più, magari una mozzarella di bufala. Proverei. Mi sembra una poi sai perché idea. Si chiama alla parmigiana la melanzana che non fanno so a Napoli, esatto, molte perché volte. Perché si chiama la parmigiana? Perché a strati alla parmigiana, come fanno le lasagne in Emilia, quindi a strati, e alla parmigiana è dettato dal quindi fatto che confermi che le melanzane, perché abbiamo scoperto che i porcini li fanno a Parma, nella Val... producono una parte importante vicino al Taro, ma così come su appunto pomodoro o altri prodotti vengono da tante parti d'Italia di qualità. Una cosa molto piemontese invece ce la chiede Luca da Torino. Tutte le ricette del vitello tonnato dicono di lessarlo nel vino bianco, ma quale? Quale? Lessarlo nel vino bianco, ma questa io direi innanzitutto non lo cucinerei nel vino bianco. Ok. Io farei una Luca, leggera... tutte le tue certezze di una vita smontate in due secondi. Ah, sì, quindi la nuova cucina italiana. L'importante è che lui utilizzi un pezzo di carne che sia di altissima qualità e soprattutto italiana. Io suggerirei un filetto di vitello piemontese, piuttosto che insomma una scelta c'è, e poi farei una leggera cottura o al vapore, perché adesso ci sono anche forni in cucina, nelle cucine domestiche, attrezzati per il vapore, oppure bollito leggermente. L'importante è che non venga fatta una bollitura esagerata, butti carne, lasci bollire. Molto, molto in linea anche con i funghi, molto Piemonte tutto questo. Invece abbiamo Guido da Piacenza. Per condire l'insalata uso il limone al posto dell'aceto. Volevo sapere se Oldani ha qualche suggerimento per accoppiare tipi di limoni diversi con oli diversi. Qua andiamo un po' nello specifico, nel voler far poesia assoluta nella cucina. Quello che io consiglio è di usare, anziché tre limoni diversi, utilizzare gli oli essenziali con una grattugia per la buccia, utilizzare l'amaro che è il bianco, utilizzare il succo che è la parte acida. Dello stesso limone. Quindi non hai scarti e recuperi proprio tutto l'essenza del limone. Poi la cosa fondamentale è quella che l'abbinamento dell'acidità dell'aceto barra limone ti dà l'opportunità anche di avere una digestione più... delicata, perché tu poi hai un olio che è materia grassa. Assolutamente. Devo dire, è un momento Madeleine, perché mi ricorda molto mia nonna che mi cucinava, faceva l'insalata, è stata per anni, andavo a pranzo il sabato da lei e col limone, devo dire che secondo me è fantastica, veramente momento molto Proust. Va bene, e stavo facendo di tutto per allontanare il momento più pericoloso per me e quindi è arrivato il momento della ricetta dell'interrogazione. Allora, la ricetta del giorno, ricordiamo, quella che dovrò fare a mia moglie appena... No, licenziamento. No. Sì, insomma, speriamo di no, abbiamo detto, quindi, fungo e mela. Abbiamo detto, dimmi, comincia a dire il titolo, perché sennò già il lì... Il titolo troviamo... Lì mi viene la perché preoccupazione. Perché poi ci sono gli chef che fanno le... No, quelle famose, la Julienne, ecco, no, fungo e mela è brutto? Sembra la carta del mercante in fiera. No, è il miglior modo per comunicare la cucina, chiamarla con i propri nomi. Va bene, amore, allora... E non usare diminutivi, non dire funghetto, verduri, aboliamo... Però spiedino, sì. Spiedino, possiamo usarlo anche perché non è una cucina. Non posso mettere lo spiedino vicino alla mela e al fungo. Lo spiedo, che magari è più completo. Allora, fungo e mela. La cosa fondamentale per fare fungo e mela è prima di tutto la pulizia del fungo. Fantastico. Io e lo chef ci teniamo tantissimo a questa Dobbiamo fare economia. E quindi recuperiamo nella tutto. Pulizia. Recuperiamo pure la terra, perché la tendenza della cucina di oggi, se volete fare i fighi, è utilizzare tutte le parti del fungo, compresa la terra. Allora, la cosa più importante innanzitutto è con un bel panno umido pulire l'interno del fungo. Sì, ma veloce. Poi le parti, vabbè, tanto, ho capito, ragazzi. Ma c'è un miracolo che io non mi sia impappinato. Poi con la terra non la buttiamo nel cestino, facciamo un brodo. E lo facciamo attraverso 20 minuti di bollitura in acqua. Bollitura leggera. Leggera, ma io faccio solo cose che sono leggero. Poi facciamo riposare 20 minuti, che è la parte più bella, quei 20 minuti fantastici in cui riposiamo. E poi la cosa fondamentale è chiarificare con un paio di albumi. Due albumi per quanta quantità di terra? Io direi un paio di litri di acqua e sui 200 grammi di ritagli di funghi abbinato a quella poca terra che rimane attaccata. Ok, e quindi poi rimane, con questo c'è il brodo. C'è un brodo molto chiaro che si può utilizzare da abbinare a una pasta che ha dei funghi, da abbinare a una carne che abbia dei funghi. È un abbinamento che può andare bene con un piatto composto da funghi. E allora, a questo punto però, una canzone almeno per cucinare me la fai mettere? Me la fai mettere una canzone per cucinare? Dai, cerca di non essere... Una canzone, allora ok, io direi di sì, ma calcola che nella mia cucina c'è un silenzio. Capito, però almeno proprio una per gioia essere della concentrati, vita, però te la permetto, dimmi anche quale. Perché così chiarifico meglio. Guarda, visto che abbiamo parlato di montagne, di funghi, mi viene in mente Bosco, che in realtà è una canzone di Plasibo che non c'entra niente col concetto di bosco all'italiana, è un mistero. Questo nome è una delle canzoni più disperate, intimiste e più romantiche di Brian Molko e degli altri. Senti che cos'è, un capolavoro, 2013, album Loud Like Love. I love you more than any man, but something's getting in the way. I do you harm because I can, for the second time today. Victims we are not of happenstance, but you're a victim all the same. Stuck inside a circumstance with your confusion and your blame. And when I get drunk, you take me home and keep me safe from harm. When I get drunk, you take me home. I ask you for another second chance, but then I drink it all away. When you react full of frustration and dismay. I was so delicate when we began, so tender when I spoke your name. But now I'm nothing but a partisan, my compulsion and my shame. And when I get drunk, you take me home and keep me safe from harm. When I get drunk, you take me home. E questa dunque era Bosco dei Placebo. Bella, ci stava, si può cucinare, puoi ispirare. Ovviamente, anche se appunto il Bosco non è riferito, non è una parola italiana, che è quella che invece confina col tema della puntata di oggi, che sono stati funghi. Abbiamo fatto, mi pare. Che dici? Io direi di sì. Possiamo andare a mangiare. A mangiare. Subito, sono 10. Pronti. Ok, ci siamo. No, io invece volevo solo aggiungere che aspetterò altre domande per la prossima settimana, quindi pronto a qualsiasi delucidazione o qualsiasi curiosità per la cucina. SOS Old 02 46 52 41 84, nostra mail mangiacomeparli@radio24.it. Torniamo sabato prossimo alle 9. Ciao chef. Ciao Pier.